quelle storie di una volta, forse fiabe, chissà, che sapore alla vita poi dà. Il fine sempre lieto, stavolta non va, si ferma sempre il nostro alla metà. Sentire forte l'ansia legata solo al sì, le storie tutte iniziano così. Due cuori e una capanna, felici come mai, perduti nell'amore dopo le sì. Cercato nei tuoi sogni, vissuto nei sospiri, ricordo di una sposa se ne va. Emozioni del momento, il vissuto di una volta, svanito già da tempo poi sarà. Chimere di una fiaba, durata di un momento, col tempo poi piano se ne va. Ma la voglia di sognare un'altra volta resta ancora. Storie ormai passate, eppure ancora qui, capire di un momento che poi va. Che serve il lieto fine, sapere come va, se la vita è ancora la metà. Ancora forte l'ansia ci prenderà così, nel cogliere quell'attimo che va. Poi sogni di un momento ritornare qui, colmano quei vuoti dopo il sì. Cerca ancora il sogno, rivivi nei sospiri, sarà ancora un attimo che va. Sensazioni di un momento, il poco di una storia, un momento da vivere così. Chimere di una fiaba, durata di un momento, col tempo poi piano se ne va. La voglia di sognare un'altra volta resta ancora.